Buongiorno, benvenuti nel teatro elettronico del sabato pomeriggio. Quello che mi piace. Io sono Gigi D'Agostino. Voi siete voi. E questo è un disco che mi sta inseguendo in ogni dove. Non mi dà pace. Si balla un po' come si vuole. Piace ogni sabato pomeriggio è il teatro dei suoni. Arrivano suoni da tutto il mondo a raccontarci una storia. Piace il teatro elettronico del sabato pomeriggio su M2O, dalle 2 alle 4. È una grande festa. C'è una storia nella testa. E tutti questi suoni ce la vengono a raccontare. nostro angolo cottura del teatro elettronico c'è il momento pentola. Perché alcune pentole ci piacciono e io lo so che siete d'accordo con me. Vi vedo. Sui marciapiedi di una grande metropoli. Sotto i palazzi scuri. Camminiamo molto vicino al muro e osserviamo tutti i volti delle persone che incrociamo. Ogni sguardo che incontriamo è una storia nuova che ci attraversa. Del nostro palcoscenico cambiano molto velocemente e improvvisamente finiamo in una grande piazza dove tutti danzano. Teatro elettronico del sabato pomeriggio su M2O. Andiamo a parlare con un ragazzo molto energico. Poi saliamo sul primo bus, senza sapere dove ci porterà. Break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, serve it, scroll it, close it, click it, cross it, back it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax it, name it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it. Maria Denis. Ora pro nobis. Sofia Loren. Ora pro nobis. Anna Maria Pierangelo. Ora pro nobis. Brigitte Lolorum. Ora pro nobis. Tony Curtis. Ora pro nobis. Curti Urgens. Ora pro nobis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questo ritorio! Paesaggio un po' hard, molto suggestivo. I suoni recitano storie calde, quello che mi piace. Il teatro elettronico del sabato pomeriggio su M2A. Braccia e le mani in posizione suca, per agevolare il suono della cassa a fare quello che deve fare, perché è quello che deve fare. Bilancia. La fortuna vi incapsula e il lavoro riceve finalmente impulsi notevoli. Non lasciatevi dunque spiazzare da una promozione, da un'assunzione, dall'acquisizione di un appalto, perché avete attributi ferrei per gestire tutto. Le gioie amorose poi spianano le rughe, rasserenano il cuore, risollevano la tibia e la cleofe, le vostre tette. Elettronico del sabato pomeriggio su M2O. A noi non interessa se il mondo corre, noi camminiamo molto lentamente, stiamo attenti molto lentamente. Se il mondo corre molto lentamente, noi camminiamo molto lentamente, stiamo attenti molto lentamente. Se il mondo corre molto lentamente, noi camminiamo molto lentamente. Stiamo attenti molto lentamente. Se il mondo corre molto lentamente, noi camminiamo molto lentamente. Noi procediamo pensando. Ringraziamo il cielo. Quello che mi piace. A noi non interessa se il mondo. D'Agostino. Introducing. Dove potrà portarmi un sentiero se non lo percorro libero, spensierato. Non saprò mai dove potrà portarmi un sentiero se non lo percorro libero, spensierato. Palcoscenico del nostro teatro elettronico.

on air with that Brian. Brian on air with that Brian. Brian on air with that Brian. Brian on air with that Brian. Brian on air with that Brian. Brian on air with that Brian. Brian on air with that Brian. Brian on air with that Brian. Brian on air with that Brian. Brian that Brian. Brian that Brian. Brian on air with that Brian. Brian on air with that Brian. Brian that Brian. Brian that Brian. Brian on air with that Brian. Brian on air with that Brian. Brian that Brian. Brian that Brian. Brian. Spazio Chiavica di oggi c'è il disco fetecchia della settimana. Con amore, con passione, guarda te che situazione, questa è una grande occasione, tutti insieme confusione, fatti trasportare, questo è un ritmo musicale, batti le tue mani, tieni il tempo, fatti trascinare, se tu hai voglia di ballare, la tua voce devi urlare, tanto non ti preoccupare se la gente sta a guardare. Con amore, con passione, guarda te che situazione, questa è una grande occasione, tutti insieme confusione. Questo nuovo tempo a volte non sa che la confusione nostra è felicità. Questo ritmo al tempo adesso cantiamo con le mani verso il cielo insieme battiamo. Questo nuovo tempo a volte non sa che la confusione nostra è felicità. Questo ritmo al tempo adesso cantiamo con le mani verso il cielo insieme battiamo. Insieme confusione. Se qualcuno volesse scrivermi, il numero per mandare il vostro messaggino è il 333-6467-662. Oppure via mail gigi@gigidagostino.com. Quello che mi piace, il teatro elettronico del sabato pomeriggio. Música. We'll be right back. Gigi D'Agostino. Ehi. Sì? Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Ok. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Quello che mi piace. Io mi ricordo tutte le volte che avevo la voce bassa e avevo paura di salire sul palcoscenico. Mi ricordo i fiori dentro i camerini, le donne fuori dai camerini che dicevano che volevano conoscermi, mi trovavano interessante, ma poi si finiva sempre a letto. Dicevano che ero bello, ma non mi sono sentito mai bello. Io mi sentivo potente, non me ne fregato mai un cazzo di nessuno. Amici! Conti di tatatini! Porgetemi le orecchie vostre! Represent the hip hop. Represent, yeah, yeah. Represent the hip hop. Represent, represent the hip hop. Represent the hip hop. Represent, yeah, yeah. Represent the hip hop. represent the hip hop. Represent represent the hip hop. Represent, yeah, yeah. Represent the hip hop. Io ho sempre amato la libertà. E voi non sapete manco che cazzo significa. Io ho sempre amato la libertà. Io sono un uomo libero. D'Agostino, quello che mi piace. Vanessa Antiope, molto rara da noi, non le sembra bella? Sì, bellissima. È quello che mi piace. Ignorante. Sì, no? Diciamo che o esiste anche il DJ vero. Colto, laureato. C'è qualche DJ laureato? Ce ne sono molto pochi. Però non lo dicono. Non lo dicono perché altrimenti gli tolgono anche la patente di DJ. Sì, in effetti la classe non è affollata di e scienziati. E come viene vissuta questo marchio dell'ignoranza? Con orgoglio alla fine. That thing, miss, can I shake that thing, yo, Annabella shake that thing, miss, Donna shake that thing, miss, Donna shake that thing, miss, Donna shake that thing, me and Rebecca, yo, shake that thing, yo, Joanna shake that thing, yo, Annabella shake that thing, miss, can I do it, yeah, hey, yo, oh my gosh, I didn't shake that thing, miss, Donna shake that thing, miss, Donna shake that thing, miss, Donna shake that thing, miss, Donna shake that thing, miss, Donna shake that thing, me and Rebecca, yo, shake that thing, yo, Joanna shake that thing, yo, Annabella shake that thing, miss, can I do it, yeah, yeah, hey, yo, oh my god, I didn't shake that thing, miss, Donna yo, funny and Rebecca, yo, shake that thing, yo, Joanna shake that thing, yo, Annabella shake, yo, yeah, yeah, yo, shake that. L'ha visto? Io non ero su Facebook, perché l'idea di Facebook, gli amici, i vecchi amici, chi se ne frega. Facebook è già morto, nel senso, i social network hanno questo nuovo Twitter, molto più veloce e dinamico, che risolve una valanga di problemi. Non c'è questa pratica dell'inciuccio, non si rivedono i compagni di scuola nei vicini di casa, ed è già una fortuna. E quindi è già un passaggio. Messaggi veloci, istantanei. Vuoi concludere con me stasera? Sì. Ti aspetto sotto l'arco della pace, mi riconoscerai perché sono tutto a fuoco. That thing, me and Rebecca, yo, shake that thing, yo, Joanna, shake that thing, yo, Annabella, shake that thing, Miss Canna, Canna, Dot, yo, yeah, hey, yo, come and go, so then shake that thing, Miss Donna, Donna, yo, funny Rebecca, yo, shake that thing, yo, Joanna, shake that thing, yo, Annabella, Dot, yo, yeah, hey, yo, come and go, so then shake that thing, Miss Canna, Canna, Dot, yo, yeah. Yo, oh my god, so then quello che mi piace. Musica, amore e pace. Questo è quello che mi piace. D'Agostino. Musica che unisce. Quello che mi piace. Che non mi dure, c'è un grande. sempre un modo, una strada, un mondo che mi può ridare la forza che so di avere in me. Quello che mi piace. Quello che mi piace. M2O. A volte basta poco per sentire la gioia di una giornata. Magari qualcuno che camminando mi sorride lungo la strada. Felicità è quando penso che sto tornando a casa da te. Happiness to me. tra poco. Quello che mi piace. Il teatro elettronico del sabato pomeriggio su M2O. Teatro elettronico del sabato pomeriggio su M2O. Ecco perché ritengo che sia più che probabile. D'Agostino. È quello che mi piace.